sono ancora io. Ancora io. Sempre io. Senti. Ancora io che cerco un nesso, che mi chiedo in questi anni che cazzo è successo. Forse è troppo presto. È troppo presto. No, non è troppo presto. Flavie, alzami in cuffia un po' di più, che non sento bene, non mi sento bene. Sento il vento che contro il petto preme come 100 iene. Stanno lei, mi guardano, aspettano i miei resti fino all'alba, bro. Rimangono fino al volo dell'albatro. E poi rimango ancora con l'amaro in gola, come quando andavo a scuola e loro mi dicevano: e dai migliora, e dai migliora che? Che cazzo ne sai cosa migliora a me? Figurati se dico una canzone rap. Mi guardano d'alieno perché in testa un treno, coi bagagli di ogni amico vero. Che è mio passeggero, io lo porto dove vuole, fino a sopra il sole. Perché niente è bello come sorprendere le persone. Io lo faccio con la voce e con le rime, che il resto mi opprime, tranne questa musica sublime. Il fruscio dei dischi vecchi che girano sulle puntine. Mischio le ultime emozioni con le prime. E sogno un grande hip hop, resto un giorno chiuso in studio a fare le sto. Tra una cassa, un rullante e un charleston. Stendo in mezzo agli altri come una LeBron. Basta che metti un cazzo di loop, soprattutto pure Ableton. Che poi spacco il tempo come una lancetta. Sai da dove vengo? Dal miscuglio dei miei sogni col cemento. Dalla vendetta che mi porto dentro, da quando a 13 anni avevo una cannetta e la faccia di Tupac sulla maglietta. Adesso invece hanno le maglie con la faccia mia. Neanche nella più lontana fantasia avrei pensato di prendere la musica e poi farla mia. Forse sto male, corro in farmacia, ma poi mi sveglia il cellulare che stasera suono. Il posto è sold out, il treno è tra 2 ore, fumo questo e volo. Arrivo in stazione col fiatone, ma lo prendo. Che cazzo di vita sto vivendo? Guardo dal finestrino e come tutto il mondo penso al mio destino, a quello che mi gira intorno, ogni respiro che scende giù profondo fino all'intestino, quando mi nascondo per toccare il fondo del cestino. Fanculo. Il fondo del cestino. Per toccare il fondo del cestino. Il fondo del cestino. Devi essere stato l'ultimo per essere il primo. Devi essere stato l'ultimo per essere il primo.